Ho studiato almeno 100 libretti, ma non ne ho trovato uno che mi possa soddisfare, a meno di non apportare molte modifiche. Abbiamo qui un certo abate da Ponte, nominato dall'imperatore librettista dal teatro italiano. Deve, per obbligo, scrivere un libretto nuovo per Salieri, poi ha promesso di scriverne uno per me. Chissà se manterrà la parola. Lo sapete, gli italiani apparentemente sono molto amabili, ma basta così, li conosciamo. Se si intende con Salieri, non otterrò mai nulla da lui. Figlia carissima, ho finalmente ricevuto una lettera da tuo fratello. Si scusa per il lungo silenzio, ma deve terminare in fretta le nozze di Figaro. Per essere libero e poter comporre al mattino, ha spostato le lezioni al pomeriggio. Io conosco la commedia di Beaumarchais, è molto elaborata, e la traduzione dal francese sarà stata certamente molto libera per ottenerle un libretto d'opera. Speriamo che l'aria piaccia. Della musica non dubito. Come al solito Wolfgang avrà molte discussioni col librettista, l'abate da Ponte, prima che il libretto sia sistemato secondo il suo gusto e come lui pretende. Io non so. In un'opera, la poesia deve assolutamente essere figlia devota della musica. Perché le opere comiche italiane piacciono soprattutto, e con tutte le miserie del testo? Perché la musica domina interamente, e tutto il resto si dimentica. Tanto più allora deve piacere un'opera in cui il piano del dramma sia lavorato bene e le parole siano scritte solo per la musica, senza inserire qua e là strofe che rovinano le idee del compositore solo per amore di misere rime, che non aggiungono nulla alla qualità di una rappresentazione, ma sono anzi dannose. I versi, certo, sono assolutamente indispensabili per la musica, ma le rime per le rime sono la cosa più dannosa. I poeti che procedono in modo così pedante naufragheranno sempre. Insieme con la musica. La cosa migliore avviene quando un buon compositore che capisce il teatro ed è in grado di dare un suo contributo e un poeta intelligente si incontrano, come una vera e propria araba fenice. Allora non bisogna più preoccuparsi dell'approvazione degli ignoranti. I poeti mi sembrano dei trombettieri coi loro scherzi da mestieranti. Se noi musicisti volessimo seguire sempre fedelmente le nostre regole, che andavano bene un tempo quando non si conosceva niente di meglio, faremo sempre della musica inutile, come essi fanno dei libretti inutili. In questo momento, caro padre,